questa è per tutti i fenomeni della scena. Vai Mike. Va bene, avete ragione voi. Ma solo perché la ragione la do agli idioti. Ok, non mi abbasso, non scendo mai il tuo livello. Bello, te la credi ma non ti crede neanche un pivello. Quello che ora esprimo è lo sconforto, te lo porto in fronte a piena. Dico ciò che provo, fai veramente pena delle tue conoscenze, a me non me ne frega un cazzo. Me ne sbatto dell'andazzo di sta scena. Mi autostrato, meglio intatto che impalpabile. Non è più tollerabile vedere babbi fare fenomeno, è miserabile. Patetici, calle gemme applaudono solo gli amici o chi gli torna comodo per togliersi gli impicci. Dici un po' dei tuoi giochetti, pensi forse io non sappia che un infame come te non ci mette mai la faccia. Parli di mafia e mi dici che il mondo è marcio. Beh, bella scoperta, siete i primi a sporcarlo. Questa è Genova Nord, martellate stile Thor. Voi finti come Sanremo, che c'entrate con l'hip hop? Perché la storia è questa qua. Non sapete come gira il mondo, sentendovi fenomeni, ma non lo siete voi. Perché la storia è questa qua. Non sapete come gira il mondo, sentendovi fenomeni, ma non lo siete voi. Aspetta Andre, che c'ho anche due cose da dire. Perché la storia è questa perché qua. La storia è questa qua. Sai che la situazione è questa. Un MC fa un fit con l'altro MC, ma ha detto a un altro MC che quell'MC detesta. Un MC che si rispetta, rimane coerente, è lo stesso sempre nei testi e nelle sue gesta. Resta solo un dubbio nella mente, come fa a crescere sta città nel rap se spingi solo la tua gente. Dai primi pezzi ci deridevi sicuramente, ma forse rode il culo che ha più di chi si sente. Meglio buffi che buffoni, meglio canne che cannoni, meglio umili che sentirsi campioni. Chiacchieroni non va da nessuna parte, si parte tu fatti da parte nell'hip hop perché l'hip hop è un'arte. Me ne fotto se con noi c'hai pregiudizi. Io prego per non andarci sotto con i miei vizi. La mia gente parla solo con i fatti e gli stronzi come voi parlano solo se son fatti. Perché la storia è questa qua. Non sapete come gira il mondo, sentendovi fenomeni, ma non lo siete voi. Perché la storia è questa qua. Non sapete come gira il mondo, sentendovi fenomeni, ma non lo siete voi. È già stato detto tutto.